Tempo di sport con Carlo Genta. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra. Io continuo a sentire un ritornello che non è questo, la notte prima degli esami è quella che verrà. Continuo a sentire invece un ritornello che è vecchio di un anno esatto. Quello che parla di un allenatore scelto senza troppo entusiasmo presidenziale, che racconta di difese d'ufficio, di dichiarazioni di intenti, però come è finita lo sapete già. Io dall'inizio, con rispetto, con educazione, ho fatto il mio lavoro, tante critiche, tante cose che ho letto, sentito, e penso che sempre sono corretto, sempre faccio le cose che si devono fare, e adesso dico sì, la società vuole a Rafa Benitez come allenatore per il futuro, devo avere un supporto e devo avere controllo di tutte le cose che fanno i giocatori in campo, che tutte le cose che fanno quando si allenano, e se ho questo supporto possiamo andare avanti, se no parleremo sempre di un colpevole, ma la squadra non crescerà e non vincerà di più. E com'è finita lo sapete tutti. 800 24 00 24, numero verde, Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanide e Giorgio De Luca in redazione, e Massimiliano Nebuloni da Sky ai nostri microfoni. Ciao Massimiliano, grazie. Ciao, buongiorno, grazie a voi. Come finirà questa? È un déjà vu. Vero? Sentendo le parole di Rafa Benitez, dipende da come andrà domani con la Roma. Può essere la partita della svolta, ma in caso di un nuovo passo falso, Moratti ha lasciato chiaramente intendere, insomma, tra ieri e l'altra notte, che l'avventura di Gasperini potrebbe concludersi amaramente dopo appena 4 partite. Del resto, insomma, alla fine contano, almeno soprattutto in Italia, soltanto i risultati, e i risultati non sono dalla parte dell'Inter, anche se se mi permetti, insomma, la domanda ricorrente tra i tifosi è: perché è stato scelto Gasperini se l'Inter non ha gli interpreti giusti per giocare con il 3-4-3, che è sempre stato il suo modulo di riferimento? È come andare a prendere Zeman e imporgli il trequartista. Poi Gasperini, che non è un uomo, è un allenatore sprovveduto, naturalmente si può adattare, può limare diciamo in qualche modo la sua filosofia calcistica, però la sostanza non cambia. Insomma, non è arrivato un centrocampista per puntellare un centrocampo un po' logoro, e soprattutto la società ha preso negli ultimi giorni di mercato Forlan e Zárate, che tutto sono tranne che due esterni di fatica, come poteva essere Palacio, per intenderci. Ma sicuro. Io noto che questa è essenzialmente una crisi societaria, non so se sei d'accordo. È la crisi della società, non è tanto la crisi di Gasperini, anche per i motivi che tu stavi dicendo, sui quali sono d'accordissimo. È anche vero che Gasp, come Rafa, è entrato in modo abbastanza dogmatico, no? L'approccio più furbo in fondo era stato quello di Leonardo, che aveva capito subito quali erano le corde giuste dell'interismo. Poi è chiaro che ha fatto il furbo a sua volta, ma cosa vuoi pretendere, insomma? Sì, forse insomma la chiave giusta è presentarsi all'Inter e magari mettere da parte quelle che sono le tue convinzioni tattiche, sì, e fare più il gestore, diciamo il motivatore. In questo anche Mourinho, se vogliamo, dopo i primi 3 mesi del 2008, della sua gestione, era stato furbo, aveva capito che con Quaresma non avrebbe fatto molta strada, aveva accantonato il 4-3-3 per tornare a giocare come giocava Mancini. Poi l'Inter è decollata nella sua seconda stagione, però insomma in questa squadra fondamentalmente un po' logora, che ha dato tanto e ha vinto tutto nelle ultime stagioni, forse avrebbe bisogno di un allenatore che la faccia giocare come sempre è stato abituato a fare negli ultimi anni, con cui ha vinto tutto, e senza insomma imporre certe idee che forse è più difficile ancora da apprendere a una certa età, passati 30 anni, sicuro, per gente che è sempre stata, che non ha mai praticato insomma questo tipo di gioco. Sicuro Max, però è la sensazione ma la sensazione di fondo però è che insomma Gasperini non sia la scelta della vita come allenatore dell'Inter. La sensazione che almeno io ho sempre avuto è che fosse una scelta ponte, una scelta di passaggio verso chissà che cosa in futuro, che sia Guardiola, che sia Capello, che sia Ancelotti, che sia chi vuoi tu, io non lo so, però l'impressione è che comunque Gasperini fosse una scelta ponte, no? Lo stesso sarebbe con i nomi che girano, da Ranieri a Rossi, che pure sono bravissimi, grandi allenatori a seconda delle convinzioni, dei gusti, però quello che non vedi, e per questo parlo di crisi societaria, è dove vada l'Inter in futuro, dove possa andare, dove voglia andare Moratti. Sì, anche perché tu mi insegni che insomma il grande allenatore lo fanno le grandi squadre, e qualora dovesse arrivare anche Capello in questo momento o fantascienza Mourinho, non so dove l'Inter potrebbe migliorare, ecco, perché ci sono tanti troppi giocatori, insomma, che l'abbiamo visto nell'ultima partita contro il Trabzonspor, che sono così, viaggiano costantemente con la spia rossa accesa, no? Come dice qualcuno, e quindi insomma, al di là della questione tattica della difesa 3, Gasperini ha rimescolato le carte, ma però è chiaro che se non hai Maicon ma gioca Jonathan, se non c'è Kivu gioca Nagatomo, se non c'è Forlan e gioca questo Zárate, più di tanto la squadra non può dare. E Gasperini, che è un bravo allenatore ma non è Harry Potter, per parafrasare Mourinho, si deve adeguare alla situazione contingente. Sì, non è neanche un pirla Gasperini, tutt'altro, sempre per parafrasare Mourinho, si intende. Il fatto è che vedi che anche in questo ritorna una, non so, in qualche modo il ritornello di un anno fa, no? Con Benitez che diceva: ho Coutinho, faccio giocare Coutinho, questi sono i giocatori che ho a disposizione. È una serie di situazioni che mi sembra ripetersi, magari sono fissato io, non lo so. Per chiudere, Max, domani è già, questa è la notte prima degli esami, domani invece è già la notte dei lunghi coltelli, ma per tutte e due, anche Luis Enrique. Sono talmente in stato confusionale, mi pare, Inter e Roma in questo momento, che la ragione direbbe un pareggio, che tra l'altro i buchi, stavo leggendo ora le quote, danno a 3,40, che non mi sembra malvagia come quota. Sì, potrebbe essere il risultato, insomma, che potrebbe mettere d'accordo e accontentare, si fa per dire, entrambe, anche se da parte romanista, pur non seguendo la squadra di Luis Enrique, mi sembra insomma che tutta la squadra sia molto, e anche la società molto più compatta intorno al proprio allenatore, e lo abbia molto più difeso nelle ultime, nonostante i risultati deludenti della Roma, cosa che non è avvenuta con Gasperini, che insomma si è dovuto si è venuto a trovare in una situazione un pochino più complicata, sì. e ha avuto delle frizioni anche lui con qualche uomo simbolo di questa squadra, però insomma non è una partita semplice per entrambi, chi perde rischia seriamente grosso domani sera. Grazie Massimiliano. Grazie a voi. Grazie davvero Massimiliano Nebuloni. Adesso toccherà agli ascoltatori, subito dopo il traffico, 800 24 00 24. Piacerebbe parlare con voi anche dell'altro big match che ci aspetta nel weekend, con il Napoli, che è indubbiamente la squadra del momento. A proposito, ci avete fatto caso? Anche quest'anno, con l'Inter, il Milan, che si arrabattano tra mille assenze e infortuni, al Napoli, toccatevi, napoletani, Giorgio De Luca, al Napoli stanno tutti bene. Già che l'ho anticipato prima, quota dei bookmakers su Inter-Roma, i bookies tutto sommato credono abbastanza all'Inter, 1,85 è quotata la vittoria dei nerazzurri, 3,40 al pari, e questa mi sembra interessante, 4 la vittoria della Roma di Luis Enrique. Mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensate dell'approccio al solito censurabile delle nostre squadre in Europa League, in particolare della Lazio. Si comincia con il turnover, con gli stadi vuoti e con una manifestazione che porta punti naturalmente alla classifica, al ranking UEFA, ma le nostre se ne fregano bellamente, e già dall'approccio degli allenatori e delle società dicono chiaramente: non ci interessa questa roba, vadano avanti gli altri, e vanno avanti i portoghesi, che magari ne portano 3 in semifinale e mettono la freccia sull'Italia nel ranking UEFA. Altri discorsi questi. 800 24 00 24, per Luca che scrive dalla metà blu cerchiata di Genova: l'Inter ha finito il suo ciclo, tutto qui, ci può stare, no? Magari è iniziato quello del Milan, scrive Luca. Oppure Luigi: ma il fair play finanziario deve valere solo per l'Inter e le altre hanno una dispensa papale? Questo bisognerebbe chiederlo all'Inter e alle altre. E se all'Inter ci finisse Lippi, scrive un altro Luca, non credo proprio, Lippi ha già dato. 800 24 00 24, Tiziano, provincia di Modena, poi Enrico e Giuseppe. Tiziano, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Io sono un tifoso dell'Inter, quindi parlerò dell'Inter. Sì. Due cose che volevo far notare. La prima è che senz'altro Gasperini non è particolarmente amato da Moratti, e probabilmente è stata una scelta un po' di ripiego. Lo dimostra il fatto che alla conferenza stampa di presentazione, se ricorda, Piano Gentile, Moratti non c'era, mentre sì, per Mourinho, per Mancini, per gli allenatori da lui amati, tra virgolette, c'è sempre stato. Prima cosa. Seconda cosa. Sì, leviamo anche i condizionali, Tiziano. Leviamo, ma è così, leviamo i condizionali, sì, ma insomma, ma ci ricordiamo, no, i giorni in cui c'era la caccia all'allenatore con il giro delle sette chiese e tanti usci sbattuti sul naso dell'Inter, da Bielsa a tutti gli altri che erano stati contattati. Quindi ricordiamo anche Moratti, che qualche giorno prima della firma di Gasperini a domanda: ma prendete Gasperini? Lui: ma per favore, ricordate tutti, no? Quindi è chiaro che sulla scelta di Gasperini come allenatore dell'Inter non c'era in società unanimità di vedute. Sappiamo bene come Gasperini sia stato scelto, sia stato voluto, sia stato appoggiato da Marco Branca. Moratti non è mai stato convinto. Dica. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, devo dire che effettivamente Gasperini si è dimostrato fino adesso intanto troppo legato a degli schemi prefissati, un po' testone sicuramente, e mi sembra in forte confusione, perché sono due mesi che è all'Inter e in due mesi secondo me non è riuscito a capire che la squadra è, come dicevate prima, abbastanza logora, soprattutto negli elementi trainanti, centrocampo in particolare. Quindi ci vuole un modulo, un adattamento dei giocatori a un modulo che non può essere quello che lui predilige, perché il famoso 3-4-3 presuppone due esterni che corrono come degli ossessi, vedi il Napoli, sicuro, altrimenti non ha nessun senso, ma e nell'Inter non ci sono i giocatori. Ma guardi Tiziano, non a caso prima ho detto che l'approccio più furbo a questa squadra, che è chiaramente una squadra a fine ciclo, una squadra che andrà pian piano rifondata, non capisco, non vedo come, non vedo con chi, però qualche idea ce l'avranno, io credo. L'approccio più furbo era stato quello di Leonardo. In questo momento all'Inter servono scelte di conservazione, perché comunque è una squadra profonda, è una squadra che ha ancora talento, è una squadra che ha esperienza, quindi servirebbero scelte conservative, non servono scelte di rinnovamento per questo gruppo. Perché? Perché è un gruppo che sta chiudendo un ciclo molto vincente, ma non sono questi giocatori che ne apriranno uno nuovo, saranno degli altri. Enrico da Catania, buongiorno. Buongiorno Carlo, è un piacere ascoltarla. Reciproco, dica. Allora, l'argomento è sempre l'Inter. Sono totalmente d'accordo con lei il fatto che la società ha scelto Gasperini perché non c'era niente di meglio in giro. No. E lo sbaglio della società è stato che non ha messo a disposizione dei capitali da investire su giovani, su giocatori che potessero dare una mano a Gasperini a fare il suo modulo. Lei che ne pensa? Penso che quello che ho detto prima, insomma, credo che Gasperini non sia la scelta della vita per Moratti e per l'Inter. Credo sia stata una scelta di emergenza. Noto con e ricordo con curiosità le belle parole che il solito Mourinho, eminenza grigia e fantasma che aleggia sempre su Milano, ebbe per Gasperini in quei giorni. No, non so quanto peso possano aver avuto, però Moratti in momenti di questo tipo è particolarmente sensibile, l'ho letto anche oggi su diversi giornali ed è qualcosa da notare, qualcosa che condivido, è particolarmente sensibile alle opinioni degli interisti che contano. Gasperini non è la scelta della vita, Gasperini non è l'allenatore del futuro dell'Inter, continuo a pensare che sia una scelta ponte, verso dove non lo so. Giuseppe, Venezia, buongiorno. 800 24 00 24. Ah, mi bacchettano se non ricordo, ma lo faccio con grande piacere, che siamo su Facebook e Twitter alle pagine A Tempo di Sport Radio 24, quindi veniteci a trovare anche attraverso questi metodi di contatto, diciamo così. Giuseppe, buongiorno. Salve signor Carlo. Salve. Volevo dare la mia piccola opinione sull'Inter. Io penso che non sia un problema di allenatori, penso che sia un problema di società. E penso che anche i giocatori più importanti siano accorti della situazione, a parte Leonardo che ha abbandonato così tutto di un colpo l'Inter e non ce l'aspettavamo, anche la scelta di Eto'o e Schneider fino a poco tempo fa aveva il desiderio, penso, di abbandonare anche lui la società, quindi c'era già il sentore fra i giocatori che è finito un ciclo. Aspetto un suo pensiero. Beh sì, che è finito un ciclo, insomma, l'abbiamo detto che è finito, che sta finendo un ciclo, ma questo è fisiologico. Eto'o insomma è andato via per questioni di quattrini, come ben sappiamo. Schneider stava per andare via per per questioni di quattrini e di spazio, di impiego, perché insomma in tutto questo, l'ho già detto molte volte, mi sembra assurdo che venga messo in discussione in funzione di un modulo un giocatore come Wesley Sneijder, che continua a considerare tra i più forti del mondo. Dunque è chiaro, Gasperini dice: io faccio questo modulo, non ho mai giocato con i trequartisti, eccetera. Va bene, però potrebbe anche essere il caso di adattarsi alle risorse che hai, e credo che in pochi abbiano delle risorse come Sneijder, tanto che lo vorrebbero tutte le squadre del mondo. È questo che continuo a non capire, insomma. Alberto Treviso, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, ogni tanto riesco a sentirla. Grazie. Nei miei tragitti in macchina. Sì, può sentirci anche in podcast, già visto che stavo parlando di tecnologie, quindi se non ha tempo adesso, magari anche stasera se lo scarica. Perfettissimo, grazie mille. Dica. Volevo solo fare una piccola riflessione su quanto io sono un tifoso milanista, fondamentalmente, e volevo fare una riflessione sugli infortuni del Milan, che tutto questo famoso e celebrato Milan Lab non mi sembra stia dando risultati o vantaggi rispetto a... Bisognerebbe capire come lavora Napoli Lab, dicevo prima, scatenando... fatemi gli scongiuri di là dal vetro, pieno di tifosi del Napoli. No, è vero, Alberto, Milan Lab come le altre, perché insomma non è che all'Inter stiano meglio, come lei sa, diverse squadre hanno approcciato la stagione con un sacco di infortunati, tutti tranne il Napoli, ma è cronaca, Giorgio De Luca, non fare così. Dica, Alberto. No, poi volevo solo fare una constatazione che vedendo la partita del Milan di martedì, diciamo che il signor Lionel Messi, che è il numero uno al mondo, era ovunque, correva come fosse nato. Sì, Antonio Cassano, che con solo lucidità lì le scarpe, è fermo sulle sue gambe a passeggiare. Crudele, lei è crudele, non può paragonare Messi a Cassano, né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista atletico, né dal punto di vista della mobilità, da nessun punto di vista. Il suo paragone è ingiusto, lo trovo molto crudele. È vero, Verissimo. L'ha notato anche Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport di oggi. Siamo in crisi, a parte che questo è un vecchio refrain di Arrigo, che probabilmente ogni anno tira fuori lo stesso articolo, no? Di questi tempi. Però siamo in crisi di idee, siamo in crisi tattica, siamo difensivisti e anche atleticamente soffriamo qualunque tipo di confronto. C'è anche da dire che il rovescio della medaglia, Nesta a 35 anni che fa comunque quella partita, è un altro spunto di cronaca, per l'appunto. Io la penso come Galliani da questo punto di vista: se stanno bene, Nesta e Thiago Silva sono la coppia di centrali più forte del mondo. Alessandro Napoli, buongiorno. Ma buongiorno a voi, salve. Non mi insulti, dica. No, ma assolutamente, diciamo che da buon napoletano una piccola toccatina è stata fatta. Mancherebbe, però è cronaca. No, ma infatti è verità, quindi assolutamente. Anzi, è quasi storia, perché anche l'anno scorso uno dei punti di forza del Napoli fu proprio nel fatto di avere comunque grande salute nelle sue stelle, nei suoi interpreti. Dica. Sì, la forma fisica è stata molto importante, esatto. Speriamo anche quest'anno. Diciamo che qui a Napoli siamo molto contenti del risultato 1-1, paradossalmente forse ancora di più del pareggio che della vittoria, perché magari sai, volare basso è sempre meglio. Siamo la prima di Champions dopo 21 anni, è stata una bella ammazzata cardiaca, diciamo, rivivere un'esperienza del genere. Ma è vero che i sismografi di Napoli hanno registrato delle scosse, ma non sto scherzando, l'altra sera quando ha segnato Cavani? Assolutamente sì, non è veramente, non sto scherzando, perché ho un parente che lavora al centro studi sismologia di Napoli a Capodimonte e veramente è stato riscontrato una piccola variazione del sistema di oscillamento di rilevazione dati, una cosa del genere, ma veramente comunque è stata, io ero a lavoro in pizzeria perché sono un pizzaiolo e mi sono fermato mentre facevo una pizza, mi sono dovuto fermare assolutamente. Non lo so, guardi, io non lo so, lei dice ma è meglio così, se no ci montiamo la testa, vogliamo troppo alti. Non so se considerare la grande partita del Napoli l'altra sera, una partita di grandissima personalità, perché secondo me davvero il Napoli è la squadra del momento per la questione della salute di cui gode, per anche la vittoria di Cesena ottenuta come una grande squadra e la partita piena di personalità di Manchester. Non so se considerare quella partita come uno splendido inizio o un'occasione perduta, ma sarei quasi propenso per la seconda ipotesi dal mio punto di vista. Dunque, dato che mi sto divertendo, voglio continuare su questi argomenti, in particolare quelli in salsa nerazzurra. Poi nel weekend avremo tutto il tempo che volete per i mondiali di rugby, per gli europei di pallavolo, per i mondiali di cricket, di lipa, di hockey, di tutto lo sport che c'è, insomma. Con grande piacere chiamate, ne parliamo insieme, 800 24 00 24. Però voglio continuare a parlare di Inter, e sapete, Fiorello ieri su Twitter ha fatto le sue, ha fatto anche discreti danni, no? ha lanciato le sue idee, no? Quindi angolo dedicato all'interismo, ai tifosi dell'Inter. Mario Boni, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Sai che qui con me c'è un ospite, aspetta che lo conosci già, te lo presento. Voi siete qui. Zappara rimette dentro, attenzione, alti, top, traversa incredibile, ancora Trabzonspor, e gol dell'1-0, Celuzka, Trabzonspor in vantaggio, incredibile davvero, incredibile. Trovate che io sia sadico, è vero, assolutamente. Giro il coltello nelle ferite di Matteo Caccia. Ciao Carlo, buongiorno, ciao Mauro. Mario. Ciao Mario. Ciao Matteo, complimenti ancora per la tua trasmissione. Ti ringrazio. Sì, ma non mi interessa i complimenti. Neanche a me. Voi siete qui, lo sentiamo dopo. Io voglio parlare con voi di Inter, Matteo Caccia. Ma ti ringrazio per avermi chiamato oggi e non tipo nel maggio del 2010 per parlare di Inter. Perché? Perché adesso è divertente, Carlo, il maggio del 2010, certo, mi sarei annoiato. Guarda, non so moltissimo che cosa dire. Era il 1989 quando ho visto il primo scudetto dell'Inter. Sì. Ed era il 2010 quando ho visto l'ultimo. Sì. E in mezzo ci sono state sono successe tante cose. Però il tifoso in assoluto guarda quello che è successo il giorno prima, giusto? E quello che è successo il giorno prima è che 3 partite abbiamo giocato e 3 partite abbiamo perso. Però io credo, non so come vivano, non so ad esempio Mario come la viva, però poi sull'interismo e sull'essere interista ci hanno campato un sacco di persone, ci scrivono libri e steminate qua. Io posso dirti come la vivo io, e io la vivo un po' che essere interista ti dà la sensazione che può sempre andare peggio di come sta andando. Cioè, va male, occhio però, perché potrebbe andare molto peggio di così. Può cambiare la vita. Una metafora. Essere interista è una metafora della vita, è grossa. Però può sempre andare molto peggio. Perché sabato c'è la Roma, ad esempio. Certo. Ad esempio. Marione. E noi interisti quasi ci aspettiamo, vogliamo che vada peggio, perché abbiamo questo modo di vivere, frutto anche delle tante sofferenze degli ultimi anni, non degli ultimi anni, dei decenni, e quindi ci aspettiamo che vada male. E quindi, in un certo senso, queste sconfitte è quasi un qualcosa di strano che succede, no? Perché dopo aver goduto come le ricci, con il triplete, con Mourinho, è cominciata la diaspora dei giocatori più forti e un mancato ricambio generazionale che porta a quello che si è visto. Insomma, io credo che l'Inter avesse soprattutto bisogno di giocatori a centrocampo, e ritorna invece a essere l'Inter di di 10 anni fa, che prendavamo giocatori in ruoli che non erano così importanti. Sì, a me comunque, caro Matteo, caro Mario, ricordate un branco di vedova, perché Mourinho torna in ogni discussione. Eh beh, anche difficile però che non sia così, nel senso che è arrivato in 2 anni. È vero, di Mancini non se ne parla minimamente, però Mancini ha vinto anche quegli scudetti lì, che sono gli scudetti in cui comunque è inutile non raccontarselo. Non c'era la Juve. Scudetti diversi. Sì, non c'era la Juve. La Juve da un po' che non c'è, a dire la verità. Sì, è vero, la Juve, non dimentichiamoci che la Juve manca da tanto, quindi insomma c'è anche chi sta peggio di noi. Indubbiamente, bravo, ma appunto, no, può sempre andare peggio. E poi comunque il Milan, in realtà poi il Milan quell'anno vinse la Champions nel 2007, sì. Però vabbè, partì con un po' di appena un po', cos'erano? -8? Meno 5 forse vabbè. 5, non ricordo. E quindi è veramente difficile non fare il paragone con i tempi in cui c'è stato quell'uomo lì. E però su questa roba noi ci moriremo. Cioè sul fatto che tutti quanti sperano che Mourinho torni. Mourinho non tornerà mai. Dici? No, io non credo. Cioè, io credo che possa tornare solo se ha un gesto di grande... di nostalgia, perché sai, ma chi Mourinho, Mario, ma che no, nostalgia può avere Mourinho? C'ha... no, nostalgia di ciò che ha saputo regalare e l'intensità con la quale ha regalato certi momenti a persone che da 40 anni che non provavano, e che poi a livello economico tu basta vedere il mercato che ha fatto le due spagnole, il Barcellona e il Real Madrid piuttosto che l'inglese, l'Inter, ormai quelle squadre italiane non sono su quel livello. Però di fatto, dicevi bene, noi siamo e rimarremo per sempre orfani di Mourinho, e tutti gli allenatori si devono confrontare con lo spettro di Mourinho. E poi se ci mettiamo anche che quelli che arrivano ci mettono nel loro, capisci? Ma chi? Il povero Gasperini. Ma dai, Gasto, voglio dire, arriva... io questi allenatori come Conte, come Gasperini, come... anche del Neri l'anno scorso, vogliono portare il modulo delle loro squadre di provincia in grandi club. Io quello che dicevo, allenatori possono esserli tanti ad alto livello, il problema è la gestione e la credibilità ad alto livello, perché Gasperini purtroppo è stato esonerato l'anno scorso dal Genoa e ha allenato una squadra del genere, e si deve confrontare con uno spogliatoio molto difficile, quello dell'Inter. Ecco perché è difficile riuscire a gestire se non hai un grande carisma. E il fatto della mancanza di Mourinho, il dopo Mourinho, è veramente difficile da gestire. Comunque, guarda, io credo anche che davvero questo sia il momento in cui l'essere interista esplode proprio, perché dopo gli anni passati ti trovi in questa situazione e veramente viene fuori quanto essere interista abbia a che fare con l'autodistruttività, cioè col fatto che davvero, come dicevi tu Mario prima, e domenica sera io lo vedevo, io ho tre amici con cui mi scambio SMS in maniera davvero sincopata e quasi malata durante le partite dell'Inter, e da un certo punto in avanti, cioè più o meno dal sul 4-2 in sostanza, sono cominciate una serie di è meglio così, guarda che è meglio così, in modo che via subito invece che a dicembre, cioè è sempre così, che a un certo punto è speriamo di perdere, speriamo che la Roma sabato faccia un gol, così arriva subito, che so, Delio Rossi, scusami, il secondo commento è stato Mancelotti, ma è lì che fa il commentatore per Sky, ma vuoi che se lo pigliano, gli danno to Carletto, piglia sti 5 milioni, prendi sti 5 milioni, beh, prendili, vai no, da sti però, ragazzi, Matteo, ragazzi, ma io spero che vada sempre peggio, perché mi diverto come un matto, no, io mi metto qua, vi ascolto, fammi dire una cosa. No, Ancelotti, un altro milanista, abbiamo preso Leonardo e sono state delle coltellate nel fianco. Vabbè, ma Gasperini è Juventino. Ma prendiamo Zenga, il Valterone nazionale. Ma che tu sei della cordata Zenga. Io piuttosto mi sparo un colpo in bocca. No, oppure piuttosto Ranieri, però non Ancelotti. Ancelotti è troppo milanista, no? Ancelotti è troppo bravo. Vuoi dire questo? Poi smettiamo, poi magari mi fa vincere, smettiamo di divertirsi. Però la questione è esatto, che Ancelotti sarà pure milanista, però ha vinto due Champions League e quanti scudetti. Mentre Gasperini è juventino e ha vinto il torneo di Viareggio. Esatto, ma io sono romantico e quindi Leonardo 13 anni di Milan e Ancelotti qualcosa del genere, io soffro, ecco, io vabbè, sono così sereno. Su quello, guarda, siamo in tanti. Non avete capito, Gasp è il nostro cavallo di Troia, Marco tifoso juventino. È la regola che l'Inter perde in Champions, Jacopo da Vicenza. Può sempre andare peggio, un ascoltatore scrive, potrebbe piovere. Anche noi juventini speriamo che vi vada peggio, Nico da Ferrara. La prossima vittoria dell'Inter tra 50 anni, questo è un altro. Oppure, l'Inter è come la borsa volatile. Ragazzi, mi sto divertendo un sacco, ma adesso vi caccio via perché sono stufo. Grazie Carlo, ciao Mario. Ciao. Grazie Mario. Ciao Carlo. Ciao Marione. Dimmi. Sentiamo dopo, no? A dopo. Voi siete qui, più tardi. Più tardi, alle 4. Alle 16. No, io non parlo mai di calcio. Cioè, proprio mai no. È capitato che parlassi di calcio. Oggi però non parlo di Inter. Ti aspetto qui tra una settimana e vediamo. Grazie a te. A dopo. Grazie a te, ciao. Io mi sto divertendo, ma voi pure, a giudicare dai messaggi. L'Inter è come il salmone. Risale la corrente tra mille difficoltà, depone le uova e poi stremato schiatta. In attesa della grande rinascita. Ale da Senigallia. Oppure... rivolete l'Inter di due anni fa? Comprate una DeLorean, superate le 80 miglia orarie e tornate indietro nel tempo. Firmato Marty McFly. Roberto da Udine, buongiorno. Buongiorno, caro dottor Zeta. Allora, mai detto che sentendo la radio sembra Valerio Staffelli? Questo è un inciso. Questa è la prima volta che la sento. No, ma assomiglia alla voce, sì. Guardi, è identica. Cioè, ogni volta che va a consegnare il tapiro, non so perché, ma collego la sua voce a quella di Staffelli. Io posso al massimo consegnare dei tappeti. Ecco, benissimo, guarda, siamo in due perché anche faccio il venditore. No, comunque la interrompo due secondi soltanto. Visto che la trasmissione è molto divertente. Un piccolo inciso, una piccola soddisfazione nella piccola Udine, l'unica squadra ad aver vinto in Europa. Bravi. E questo la dice lunga, anche se con fortuna, assolutamente. E tra l'altro penso contro una squadra neanche debole, perché Ran, obiettivamente, io ho visto una bella squadra. Non sarà una squadra di campioni, però sinceramente mi sembrava una bella squadra. Ma sa cosa, Roberto, sa cosa? Che in giro per l'Europa, contrariamente a come la pensiamo noi, a questa Europa League ci tengono, ma fanno benissimo. Insomma, a me piange il cuore quando vedo immagini di partite di Europa League in altri paesi, con gli stadi pieni, con le squadre che ci danno, con tutti i titolari in campo. Guardo le partite delle nostre in casa di Europa League e mi viene una tristezza sconfinata, perché il contrario, riserve in campo, società che dichiarano l'Europa è una rottura di palle, questa Europa ci porta via risorse per il campionato, turnover, sembra la Coppa Italia dei disperati. E invece potrebbe essere soprattutto per squadre come l'Udinese e la Lazio, che sono rimaste, mentre Roma e Palermo, sempre con questo discorso, hanno già salutato la compagnia, potrebbe essere un torneo di grande interesse, di grande esperienza, un torneo nel quale si possono anche far crescere i giocatori. Insomma, si può dare e regalare ai giocatori, e l'Udinese ha un sacco di giocatori giovani, come ricordava ieri sera Guidolin, si può regalare loro esperienza internazionale che non si compra all'Eurospar, al supermercato, ma si acquista in queste partite. Di conseguenza mi sembra idiota questo tralasciare, questo bandire l'Europa League dai pensieri delle squadre italiane. Un applauso all'Udinese, che l'ha affrontata con tanti giovani, con diverse riserve, ma ha portato a casa una vittoria. Meno alla Lazio, che giocava contro un'avversaria insignificante come il Vaslui, squadra rumena, e a momenti ci lascia le penne. Adesso però voglio parlare, abbiamo sei minuti per parlare di basket, cosa che riprenderemo a fare per tutta l'ora dal 7 di ottobre, giusto? Dal 7 di ottobre torna Palla Spicchi al venerdì per tutta l'ora, ma adesso basket. Palla Spicchi. Lo faccio con Coach Dan Peterson. Ciao Coach, come sempre. Ciao Carlo, grazie mille. Amici sportivi, ciao, saluti a tutti. E noi facciamo il tifo e faremo il tifo fino in fondo per la Macedonia. Ti allinei con me? che sorpresa, un paese di 2 milioni di abitanti e ovviamente tutti indici con Bob McCallum come la chiave del risultato. È forse anche vero, però è un capolavoro, uno dei più grandi sorprese nella storia della Eurobasket. Ho letto sul sito della FIBA questa mattina, alla luce di questo qui, un elenco delle grandi sorprese nella storia Eurobasket, e in mezzo di questo c'è la Macedonia in semifinale, un paese di 2 milioni di persone. Sì, nel quale il basket non è neanche il primo sport, a differenza di altri paesi dell'ex Jugoslavia, nella quale non ci sono giocatori da NBA, nella quale c'è un grandissimo americano d'Eurolega che è Bo McCaleb, sì, e che bagna il naso a tutti gli altri. E questo è divertente. E lui veramente è la differenza, però non si vince con uno solo, come noi sappiamo benissimo. Quindi Antes e tutti, Ilievski, che ha fatto canestro vincente contro la Lituania in Lituania, cioè eccezionale, ok? Quindi veramente una grande vittoria. Adesso ovviamente vanno contro un colosso e devono stare molto attenti, però il colpo di arrivare in semifinale e giocare ancora le Olimpiadi, e giocare ancora per una medaglia, e essere ancora vivi battendo la Lituania in casa, la Lituania, guarda, tanto di cappello. Coach, io però te la dico, te la butto lì, pronostico Francia per la vittoria finale. Oggi le semifinali, Spagna, Macedonia, vincerà la Spagna, Francia-Russia, partita più equilibrata. Però io la Francia la vedo un po' come la squadra del destino. Tony Parker e i suoi fratelli contro tutti, fino adesso hanno giocato molto bene, hanno giocato un grande europeo. È che Francia ogni tanto ha una partita negativa. Io vado contro pronostico come sempre per divertirmi. Dico Macedonia parte la Spagna, che non sarà mai, però lo voglio dire, ok? Perché io spero per la Spagna, perché Sergio Scariolo è il nostro allenatore, e quindi i miei pronostici al rovescio portano fortuna. E dico Russia, che ispirata, non ha perso una partita, dico loro contro la Francia. Sono molto solidi, molto concreti nella maniera di giocare. Ovviamente sono due pronostici non pronostici, perché favoriti sono ovviamente Spagna e Francia. Senti, invece, qual è la tua sensazione? Perché andiamo naturalmente a sensazioni sul lockout dell'NBA, perché continuano le fumate nere, continuano i distacchi, si riavvicinano, poi si riallontanano. La tua sensazione qual è? Io dico questo, io penso che non cominceranno la stagione come a primi novembre come sempre. Io penso che andranno avanti, evidentemente l'ultima giornata in cui devono decidere di risolvere tutto il 6 gennaio, e se risolvono entro il 6 gennaio, più o meno questa data qui, non voglio essere preso per specifico su questo qui, ok? Possono cominciare 8 gennaio, diciamo attorno all'8 gennaio possono anche pensare a cominciare il campionato, però evidentemente non si risolvono queste cose adesso, perché i proprietari sono fermi, ma durissimi, per quanto riguarda la percentuale di introiti che vanno ai giocatori, che oggi è 57% e loro vorrebbero 40%, e questo ovviamente è un grande distacco. E poi e l'altra cosa è il tetto duro del tetto salariale, perché di poter andare sopra non gli va più, perché dicono che mediamente le società NBA stanno perdendo 10 milioni di dollari all'anno, cioè di media, e nessuna organizzazione può promettere questo qui. Cioè, sono 30 società, 10 l'anno sono 300 milioni di dollari persi, 200 milioni di euro persi in un anno da un'organizzazione. Se dovesse succedere, Serie A del calcio, chiudono tutti. Prendono incassi da qui e là, eccetera, però troppi soldi vanno ai giocatori, a mio avviso, e il fatto che non c'è un tetto fisso per gli stipendi costano troppo ai proprietari, che sono in difficoltà. Come sai tu, Carlo, due anni fa l'NBA ha preso 200 milioni di dollari in prestito a una banca a dividere fra 15 dei 30, delle 30 società. Questa è una... E poi la crisi economica c'è, non ho dimenticato, la crisi economica c'è, tu vedi le partite, ci sono posti vuoti, è una grande sofferenza per i proprietari. Stranamente non sono dalla parte dei giocatori, ma dicono prima facciamo sopravvivere l'NBA, poi curiamo i giocatori. Certo, sopravvivenza, e poi si vede che cosa resta. Esatto. Intanto l'Europa naturalmente sogna, perché se l'NBA non riapre le porte arrivano da noi, e si parla, lo sapete bene, di Gallinari a Milano, di Bargnani a Siena, di Aaron Williams in Turchia. Carlo, vai piano con questo, perché in questi casi qui, non so, un giocatore che piglia un stipendio altissimo, dicono ok, le prendiamo, però per l'assicurazione un milione di euro, un milione e mezzo di euro, cioè quale società può pagare per un'assicurazione un milione e mezzo di euro? Cioè, il vero problema è quello. Il vero problema è quello appunto è quello assicurativo. Coach, io ti ringrazio, ci sentiamo venerdì prossimo. Allora, un abbraccio a tutti. Abbraccio a te, ciao, coach. Grazie a coach Dan Peterson. Noi siamo in chiusura di trasmissione, mi spiace, perché gli ascoltatori sono prenotati, sono moltissimi e saranno andati avanti volentieri a parlare con loro, magari anche a discutere su Twitter e su Facebook, perché lì siamo e lì ci trovate da qualche tempo a questa parte. Niente, che dire, ci aggiorniamo domani dalle 17 alle 18, saremo comunque insieme per parlare di sport. Grazie a Franco Piantanida e anche a Giorgio De Luca, tifoso del Napoli in redazione, a Mauro De Angeli in regia. A domani, ciao a tutti.